Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Premesso che capisco perfettamente l'importanza dell'investimento nel nucleare, sia dal punto di vista economico che ambientale, ci sono un paio di punti che mi fanno pensare. Il referendum dell'87, che ha sancito il no dell'Italia al nucleare sulla scia dei tragici eventi ucraini, secondo il mio parere rappresenta una chiara espressione del volere del popolo. Perciò non si può far finta che non ci sia mai stato. Inoltre, in Italia c'è l'immenso problema della malavita organizzata, della mafia, con tutto ciò che comporta. Sappiamo che gestisce qualsiasi tipo di attività illegale, sappiamo che è l'impresa che produce più ricchezza in assoluto in Italia e sappiamo che non si fanno problemi, per esempio, a smaltire rifiuti tossici affondandoli con delle navi nelle acque della Sicilia. Non so per quanto tempo all'indomani del nucleare questi signori riusciranno a resistere alla tentazione di trarre profitti dallo smaltimento dei rifiuti radioattivi. Guido. Ma che alternativa abbiamo al nucleare? Dato che è impossibile immagazzinare energia elettrica, come possiamo pensare di risolvere il problema con eolico e fotovoltaico? Magari di notte senza vento? Perché guardiamo le possibilità di incidenti e non le probabilità che succedano? Marco Bolzano. Dato che tra pro e contro nucleare non si troverà mai un punto di intesa, si potrebbe ribaltare il ragionamento esclusivamente sul piano economico. Pensiamo a consumare energia in modo intelligente. Basta pensare alle lampadine a risparmio energetico. Invece da noi si tolgono gli incentivi per razionalizzare il consumo di energia nelle case e si pensa a costruire le centrali nucleari. Enzo. Io vivo in Lussemburgo, a 30 km da una centrale nucleare francese. La gente vive normalmente e nessuno sta barricato in casa per la paura. I problemi sono legati al fatto che la tecnologia francese è vecchia, non alla sicurezza. Le centrali moderne sono sicure e nessuno lo può mettere in dubbio. Mario. Spettabile Radio 24. Si sente molta gente dire che la soluzione del futuro saranno le centrali ad idrogeno, che permetteranno di produrre corrente pulita e liberarci dalla schiavitù del petrolio. Bene, questa affermazione, almeno nella forma in cui è espressa, è semplicemente falsa. A meno di non costruire futuristiche astronavi che raccolgano il gas interstellare, l'idrogeno non è una fonte primaria come il carbone o la luce, che può essere semplicemente raccolta e trasformata in qualcosa di utile, ma deve essere prodotto ricavandolo da qualche altra sostanza, ad esempio scindendo l'acqua tramite elettrolisi. Dato che, come insegnano i principi della termodinamica, produrre idrogeno consuma più energia di quanta se ne possa poi ricavare bruciandolo o combinandolo in una cella a combustibile, è ovvio che l'idrogeno non potrà mai essere usato per produrre corrente in una centrale alla stregua del petrolio. Quello per cui l'idrogeno potrà essere usato, una volta risolti i problemi di sicurezza legati al suo uso diffuso, sarà come sistema per accumulare l'energia in maniera molto più compatta e leggera delle batterie attuali, permettendo quindi l'introduzione di innovazioni come auto elettriche con autonomie paragonabili a quelle delle loro omologhe a petrolio o computer portatili dall'autonomia di decine di ore, invece delle attuali 3 o 4. Ma da qui a sostituire carbone, petrolio ed uranio come fonte d'energia sulla quale basare la nostra vita, la differenza non è poca. Anzi, proprio il fatto che l'idrogeno incentiverà lo sviluppo di veicoli ed altri macchinari a propulsione elettrica porterà prevedibilmente ad un forte aumento della richiesta di elettricità, che a sua volta richiederà la costruzione di molte nuove centrali. Se poi queste debbano essere nucleari, a gas, a carbone, a sole o a vento, è tutto un altro discorso. Sperando che entro la fine di questo secolo i nostri fisici ed i nostri ingegneri riescono a costruire le prime centrali a fusione nucleare, le quali, quelle sì, permetteranno di produrre un quantitativo praticamente illimitato di energia usando come fonte l'idrogeno. Matteo. A proposito della nuova regolamentazione del diritto allo sciopero, Credo che ci siano buone alternative per evitare cose antipatiche come l'annuncio di uno sciopero dei mezzi che viene poi revocato nella stessa giornata in cui avrebbe dovuto svolgersi. Questo succede spesso e il risultato è che la gente che deve andare al lavoro o non ci va affatto oppure si organizza per andarci in macchina. I lavoratori del trasporto pubblico vanno al lavoro e si prendono i soldi, avendo comunque causato il disagio ai loro concittadini, che quando scoprono che lo sciopero è stato revocato, ormai sono già in viaggio con la loro macchina. Simone. Caro dottor Fabi, premesso che anch'io, come lei, mi auguro che l'Italia venga rinnovata in senso realmente liberale e moderno, nelle vicende di quest'ultimo anno io vedo, nella compagine del governo Berlusconi, con la sola esclusione di Tremonti, un insieme di apprendisti stregoni che, dopo un anno di potere, ancora sono lì a esternare progetti di governo stravolgenti a parole quanto inattuabili in pratica. Infatti molti dei progetti di riforma, anche spicciola, che i vari ministri hanno annunciato con clamore ai media, dalla scuola alla sicurezza, dalla pubblica amministrazione alla giustizia, dai contratti di lavoro allo sciopero nei trasporti, dopo qualche settimana sono stati, o sono sul punto di esserlo, accantonati, ovvero rimandati, ovvero modificati nella sostanza, più per evidenti ragioni di inapplicabilità, costituzionale o pratica, che per effetto dell'opposizione ufficiale. Potrei citarle decine di casi, ma lei li conosce benissimo. Lo stesso Berlusconi, che non fa eccezione a questa regola di visibilità a tutti i costi, peraltro, come abbiamo visto, ben produttiva sul piano elettorale, ha annunciato rivolgimenti e progetti come quello sulle intercettazioni, sul testamento biologico, sulle modifiche costituzionali, sulle centrali atomiche, che poi, ne sono convinto, non potranno andare a buon fine se non in misura ben al di sotto delle aspettative. Ma ciò che in un certo senso mi stupisce è che questo constatato ridimensionamento delle velleità di questa destra populista ha finito col farmi accettare con più serenità gli annunci di incredibili novità che si susseguono settimanalmente ad opera dei vari Maroni, La Russa, Sacconi e soci, che io vedevo fino a qualche mese fa più come minacce alla libertà individuale e alla giustizia sociale che come progressi. Insomma, non li vedo più come demoni. E quindi mi ritrovo, ancorché anti-berlusconiano, a far parte di quei moderati di centro. O forse sono diventato solo un qualunquista. Giorgio Maria. Egregio signor direttore, a seguito dello svilupparsi della crisi nel settore produttivo, le entrate dello Stato caleranno e questo potrebbe provocare un nuovo disavanzo pubblico per il corrente anno e forse anche per il prossimo. Sulla somma delle uscite statali non ho sentito parlare di calo. Pertanto il deficit pubblico è in aumento e questo non è detto che si possa attenuare nel prossimo anno. Non si può risolvere questo problema solo con un aumento del debito pubblico. L'Italia ha già ora un debito pubblico elevatissimo che costa ingenti interessi passivi. Per fare cassa e affrontare la crisi, moltissimi altri paesi emetteranno un maggior numero di titoli di Stato e la forte emissione di titoli permetterà agli investitori una scelta più vasta. Per rendere il loro prodotto preferibile rispetto agli altri, gli stati emettitori avranno due modi: aumentare i tassi di interesse oppure dimostrare la propria solidità per garantire il rientro di capitale a scadenza. Come può il politico italiano servirsi di questi due modi perché i propri titoli di debito siano preferiti dall'investitore rispetto ad altri? Sulla seconda strada ci sono, secondo me, non poche difficoltà. La prima strada, invece, è solo una questione di decisione personale e comunque porterebbe l'Italia ad avere un debito pubblico elevatissimo e un maggiore rischio default. Io ho fiducia che ciò non avvenga, anche se mantengo forti dubbi per l'anno 2011. Tenendo presente che gli stati nazionalizzano le banche per non farle fallire, mi chiedo, nel caso l'insolvenza dovesse colpire direttamente lo Stato italiano, chi dovrebbe nazionalizzare? Agostino. Gentile Agostino, lei pone un problema molto concreto, oltre che economicamente drammatico. È vero, se una banca rischia di fallire, la si può nazionalizzare per evitare ripercussioni negative a livello sociale oltre che economico. Ma se un paese rischia di fallire, chi può salvarlo? In realtà, non dobbiamo nasconderci che gli stati possono fallire, cioè possono dichiarare di non essere in grado di pagare i loro debiti e di onorare i loro impegni. È avvenuto per l'Argentina nel 2001 e molti italiani si leccano ancora le ferite per i titoli argentini che promettevano alti rendimenti ma che nascondevano anche ancora più alti rischi. Se uno Stato fallisce, infatti, chi ha un credito verso lo Stato si ritrova a mani vuote. Ma non sarebbe un problema solo per i creditori, sarebbe un problema anche per lo Stato, che ovviamente non avrebbe più possibilità di ottenere altri prestiti e dovrebbe attuare una drastica e immediata cura dimagrante. Allora è necessario che lo Stato, ogni Stato, mantenga il più possibile in equilibrio i propri conti, non ecceda nei debiti e sappia destinare le risorse che riceve dai cittadini, sia come tasse, sia come prestiti, alle spese più efficienti e produttive. Se necessario, come proprio ora sarebbe necessario, iniziando tempestivamente a tagliare le proprie spese. In questa prospettiva, l'Italia dovrebbe sfruttare tutti gli spazi per ridurre i costi della politica, per esempio abolendo enti che moltiplicano gli oneri pubblici come le province. E magari, dando il buon esempio, riducendo anche i compensi di politici e amministratori, oltre che i finanziamenti ai partiti. Un'illustre attempata sconosciuta che non può assolutamente accettare quello che si sta tramando alle spalle degli italiani. Si sta elaborando qualcosa di spaventoso e, non considerando il sondino accanimento terapeutico, si sta progettando di mantenere in vita i morti. Se questo non è un incubo, ditemi che cos'è. La Chiesa che ostacola la ricerca scientifica, che impedisce l'uso delle staminali per salvare vite umane da morte certa, accetta le macchine per mantenere in vita i morti. In contemporanea non si può scegliere l'embrione sano perché la mano dell'uomo non si può sostituire a quella di Dio. Gli italiani, quindi, sono costretti ad emigrare, emigrare per la vita. Se passa la legge, dovranno emigrare anche per la morte, ma chi se lo può permettere? I più dovranno farsi carico a tempo indeterminato del familiare in coma irreversibile. In tutta questa vicenda allucinante, i politici, illuminati dai sacri principi, dimenticano le disastrate condizioni economiche del paese tutto e delle famiglie in particolare. Non ci sono letti e mezzi per i malati normali e si pensa a curare gli incurabili. Insomma, che dicano anche, per legge, chi si dovrà occupare del mantenimento in vita dei morti. E tutto questo, mentre un'infinità di gente viva e attiva muore giornalmente e fortuitamente sul lavoro, sulla strada, per inefficienze sanitarie, per violenze di tutti i tipi e anche per i cani. Silvia, Milano. Egregio direttore, a proposito di sacralità della vita umana, vorrei chiedere, senza alcuna ironia, a coloro che stanno combattendo la crociata per la vita a qualunque costo, se sono mai stati in un reparto di lungo degenza in un ospedale pubblico, se hanno mai verificato di persona che tipo di assistenza ricevono gli anziani lì ricoverati, se è mai capitato loro di sentire i conciliaboli tra infermieri e primario. Nelle lungo degenze ospedaliere si scarica per intero la filosofia, questa sì, silenziosamente omicida, del rapporto tra costi e benefici, dove i benefici sono considerati di scarsa rilevanza, i costi e l'assistenza sono ridotti all'osso. Quello che mi chiedo è, ai paladini della vita interessa l'astrazione o la realtà? La teoria o la pratica? Interessa ai paladini della vita, orfani del corpo martoriato di Eluana, sapere che tutti i giorni in qualche ospedale del nostro cattolico paese qualche anziano viene abbandonato al suo destino senza troppe storie perché tanto è destinato a morire? Questa più o meno è la frase sussurrata o pensata da certi primari, da certi infermieri e soprattutto da certi direttori sanitari, per giustificare le piaghe da decubito lasciate marcire, le siringhe e i cateteri non sterili, le flebo cambiate una volta al giorno, le lenzuola una volta alla settimana. Nicola, Ferrara. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Continuate a scriverci.